Ebbene sì, torna la fantastica sigla, molti ascoltatori e ascoltatrici ci avranno riconosciuto, Barry Gray con Space 99, che cosa ci introduce e questa sigla? Questa è la nuova stagione di Cialtroni nello spazio. Benvenuti e benvenute nella nostra fantastica trasmissione di... Informazioni tecnologica, libero sapere, software libero, divulgazione delle informazioni e... musica libera, tutto libero. Quante cose libere. Beh, è bello poter essere ad ascoltare una musica libera. Il nostro mixerista sta cercando di censurare Marco, attenzione. Sì, perché tanto non la impara mai. Ciao a tutti. Ci rinuncio anche, infatti Alessandro alla regia cerca di oscurarmi, però io parlo più forte. Allora, Cialtroni nello spazio, edizione 2006-2007, ancora per questa volta i Chemical Brothers Remixed a tenerci compagnia durante le nostre chiacchiere. Alessandro, ci presenti gli argomenti di questa puntata. Allora, con un po' di ritmo, per favore, senza tutte queste pause. Allora, andremo a parlare del Linux Day che ci sarà il 28 ottobre, sentiremo un po' di organizzatori, non tutti oggi, qualcuno... No, solo uno ne sentiremo, esatto, oggi. Sì. Dei vari Lug bresciani, parleremo di una ricerca del New York Times che dà un po' anche il senso di questa, o comunque una delle motivazioni per cui si fa questa trasmissione, e ve lo sarete chiesto più volte. E una cosa importante che c'è in finanziaria riguardo al diritto d'autore, una campagna iniziata da Peace Link, e poi presenteremo un software che cerca di restituire, insomma, agli italiani una cosa che Poste Italiane invece tenta di tenere oscurare per sé. Allora, tra pochi istanti parleremo del Lug, in collegamento con noi PV del Gardalug. Del Linux Day, esatto, che cos'è, appunto, il Linux Day? Intanto puoi iniziare a raccontarci che cos'è il Linux Day. Il Linux Day è una giornata in cui i vari Lug italiani si sincronizzano per creare, appunto, delle iniziative di divulgazione del sistema operativo Linux, e non solo, anche di, in generale, del software libero. Appunto, si coordinano nella stessa giornata in modo da ottenere sia l'effetto, cioè l'effetto, appunto, di essere una cosa, appunto, riconoscibile a livello nazionale. E infatti quest'anno abbiamo una novantina di città che partecipano a questo Linux Day nazionale, appunto intorno, che dovrebbe essere per la data del 28 di ottobre, e appunto si coordina in questa data, e abbiamo un sacco di iniziative in giro per tutta l'Italia. E abbiamo tra... Noi a Brescia abbiamo la partecipazione di, abbiamo la presenza di quattro diversi Lug, tre ufficiali, uno quasi ufficiale. I Lug sono i Linux User Group, i gruppi di utenti Linux, e appunto dovrebbe esserci dall'altra parte del filo il nostro amico Pivi del Gardalug. Ci sei? Ciao Marco, ci sono. Ciao Pivi. Ciao. Allora, a te volevamo proprio chiedere di presentare quali sono le iniziative organizzate quest'anno, ricordiamo il Linux Day il 28 ottobre, dal Gardalug. Quest'anno ci ritroviamo come l'anno scorso a Poignago, in comune presso la sala consigliare, organizzando una manifestazione a banchetti, diciamo, in cui ci sarà una forte interazione con il pubblico sui diversi aspetti di Linux e del software libero. Una sorta di fiera, diciamo, con una forte interazione con il pubblico. Questa è la stessa cosa che abbiamo fatto gli altri anni, abbiamo visto che rende molto, nel senso che coinvolge molto le persone che vengono, c'è un'interazione diretta, e abbiamo visto che è molto più piacevole rispetto a fare conferenze frontali, in cui magari buona parte del pubblico viene persa perché è difficile prendere un target su una realtà come la nostra, che non è grandissima. Sì, infatti, ciao Francesco innanzitutto, e appunto il bello della manifestazione della Gardalug, appunto, è il fatto che una persona può scegliere il tavolo su cui andare a colloquiare, e se l'argomentazione, appunto, non gli interessa, semplicemente cambia tavolo e trova qualcosa di più interessante. Mentre invece nella classica conferenza abbiamo una sequenza di persone che parlano, e magari uno un po' si annoia sentendo una roba che conosce già. E... Sì, è bello anche il fatto dello scambio di opinioni, con, si ritrova magari lì attorno a un banco in 5-6 persone, in cui è un'occasione per discutere. Spesso le persone che vengono lì hanno le idee poco chiare, ma sono molto curiose e vogliono vedere e sentirsi raccontare. Questo quando capita gente poco esperta. Poi ogni tanto capita anche gente che ne sa, diciamo, e quindi è anche un'occasione per noi per scambiare opinioni. Sì, infatti, per incontrarsi, perché comunque è un punto di ritrovo per tutti coloro che hanno la passione per il software libero, anche se magari non vengono interessati direttamente dai talk che ci sono, però è comunque bello andare a ritrovarsi in un'occasione del genere. Ecco, secondo te è più, si può dire che sia più dedicata a chi si avvicina al mondo di Linux per la prima volta, o è più un argomento dedicato ai soliti espertoni? Ma noi come Gardaluga in generale Linux Day nazionale? Secondo te il Gardalug e poi magari una riflessione sul Linux Day nazionale, visto che è da diversi anni che si tiene? Allora, noi come Gardalug la nostra idea è andare verso persone che hanno poco conoscenze come impostazioni. Quest'anno per la prima volta cerchiamo di alzarci leggermente come livello tecnico, ma comunque su una singola parte dedicata. In realtà poi a noi fa molto piacere se vengono persone più esperte, diciamo, perché è un modo per coinvolgerle con noi e per riuscire a fare qualcosa assieme. Però comunque come target non stiamo a cercare l'esperto, non ci interessa, ma ci interessa perché può essere qualcuno che ci aiuta, che comunque fare qualcosa assieme, non tanto per la manifestazione in sé. E vogliamo magari ricordare dove si terrà e quando si terrà il Linux Day del Gardaluga? Noi come Gardaluga a Pugnago del Garda, presso la sala consigliare del comune, in piazza Don Gibaldo. Quindi il 28 ottobre, giusto? Esatto. A partire da che ora? Dalle 2, se non sbaglio. Nel pomeriggio, dalle 2:30 fino alle 6:30 indicativamente, comunque nell'arco dell'intero pomeriggio. Perfetto, ricordiamo anche il sito del Gardalug, che dovrebbe essere gardalug.linux.it oppure www.gardalug.linux.it, giusto? Giusto. Dove appunto c'è il programma completo e ancora, che vabbè, è ancora un po' un work in progress in questi giorni, però sarà super definitivo entro breve. Giusto. Giusto. Va bene. Ti ringraziamo, Pivi. E nulla. Ciao, a presto. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. E ricordiamo anche il sito nazionale dove è possibile recuperare il resto delle iniziative. Allora, che presenteremo comunque anche la settimana prossima, visto che mancano ancora 10 giorni, l'abbiamo solo data così come anticipazione. Allora, il sito è www.linux.it, in alto sulla barra c'è l'indicazione Linux Day, e dopodiché c'è la spiegazione appunto di che cos'è Linux Day con il calendario di tutti gli eventi. Ah, ricollegandoci anche a un po' al senso di questa trasmissione, è uscita recentemente una notizia, un sondaggio dedicato, è stato molto spazio, è stato dedicato soprattutto dal Financial Times. Secondo uno studio di un centro di ricerca, lo Jupiter Research, basato su un campione di 5.000 utenti europei, quindi un campione decisamente ampio per studi di questo tipo, l'utilizzo di internet come fonte di conoscenza ha superato l'uso dei giornali e delle riviste cartacee. Quindi c'è stato l'atteso sorpasso, che insomma da molti era visto come inevitabile, ma un punto di svolta decisamente importante. Corrisponde anche, dovrebbe almeno corrispondere anche a una parte di redistribuzione dei budget pubblicitari, quando sappiamo che molto spesso le attività in internet, tranne i grossi siti più famosi e più gettonati, hanno avuto spesso dei problemi di finanziamento tramite la pubblicità, e questo ha dei significati abbastanza importanti. Basta pensare a quanto è cambiata l'informazione con l'avvento di internet e soprattutto l'interazione tra molti quotidiani. L'esempio più evidente forse è quello del New York Times, ma per restare in Italia basta vedere Repubblica o il Corriere della Sera, con Repubblica che addirittura recentemente ha portato la possibilità di stampare in ogni momento del giorno una sorta di giornale cartaceo, partendo dal sito web, di una dozzina di pagine, che permette di avere le notizie aggiornate come se fosse un giornale, diciamo così, stampato in maniera tradizionale. E di questo forse la cosa che fa riflettere è che comunque per molti a vincere è ancora la televisione, secondo lo studio di Jupiter, che però insomma non è chiaro nelle notizie che ci sono giunti se viene vista la televisione solo come mezzo informativo, e quindi questo forse stupirebbe molto, o se è l'utilizzo della televisione in toto, quindi a essere ancora pregnante nella giornata di chi appunto fruisce dei mezzi di comunicazione. Infatti se fosse solo come principale fonte di informazione, quindi solo per chi per esempio si guarda un telegiornale eccetera, forse il risultato sarebbe veramente stupefacente, mentre invece probabilmente il numero di ore passate a aggiornarsi tramite la televisione fa conto anche del tempo che si usa per semplice svago. No, in realtà lo studio era proprio specifico sul tema dell'informazione, quindi però in realtà di riflesso è assolutamente normale che insomma uno strumento che comunque fa anche dell'intrattenimento il suo scopo principale, anzi direi che ormai soprattutto nella televisione italiana è questo il principale scopo, insomma è chiaro che comunque venga utilizzato anche come fonte di informazione passiva, chiaramente percepita in maniera critica, però almeno al sondaggio hanno risposto in questo modo, insomma, gli intervistati. Da far riflettere soprattutto l'evoluzione appunto di queste, cosa vuol dire il passaggio al il sorpasso rispetto al giornale cartaceo, comunque all'informazione, a altre fonti di informazione, anche per quanto riguarda, non so, esperimenti come Wikipedia, che fornisce informazioni diciamo non giornaliera, quindi non paragonabile a quella dei quotidiani, ma quella paragonabile alle enciclopedie, quindi anche per quanto riguarda quel tipo di acquisizione di informazioni c'è un'evoluzione, un cambiamento delle fonti. Tutto questo che sarà anche il tema di quest'anno, insomma, che di cui parleremo spesso, insomma, perché viene ormai citato spesso il web 2, il web di seconda generazione, e che insomma è attualmente nel dibattito, e dei social networks. Quindi diciamo che inizia in questo modo la trasmissione, la serie di trasmissioni, anche per inaugurare insomma uno dei filoni principali di cui parleremo. Prima di passare alle prossime notizie, ascoltiamo un brano musicale. Che cosa ci proponi oggi, Alessandro? Allora, oggi sempre da Yamendo, che da... Ecco, ricordiamo che, vero, per molti se lo saranno dimenticati, ma tutta la musica che ascoltiamo... Buona parte, diciamo dalla seconda metà dell'anno passato, quando ho aperto appunto questo progetto, che si chiama Yamendo.org. Volevo solo dire che tutta la musica è comunque rilasciata in Creative Commons. Non so perché Vabbè, comunque. No, vabbè, per segnalare ancora il progetto che durante quest'estate non si è fermato, anzi si è evoluto in maniera direi eccezionale. Sempre questo repository, questo grosso archivio dove è possibile pubblicare i propri album da parte degli artisti, oppure è possibile scaricarlo da parte degli utenti, e tutto in licenza libera, ed è diventato sempre più grande, anche con un'interfaccia molto gradevole, molto facile da utilizzare, molto funzionale. Andiamo ad ascoltare un gruppo indie francese dall'album Car Crash, un progetto che si è concluso nel 2005, ma altro potere di internet, insomma, la musica rimane nonostante il progetto musicale si sia ormai concluso. Ma insieme. Abbiamo ascoltato anche questo brano tratto da Yamendo, fantastico sito. E passiamo invece all'analisi di una modifica proposta dalla proposta sì, dalla così va bene. Vabbè, dai, continuiamo. Adesso Zamp ci fa dire, la sua fantastica imitazione del riccio che noi fa tanto ridere tutte le volte dunque, la fa. Continuiamo dunque con la trasmissione. Passiamo adesso ad un'altra news che riguarda un articolo presente nella finanziaria. Tra l'altro è stata lanciata nei giorni scorsi una campagna per opporsi a questa scelta. Ce la illustra Marco. Ma ha rubato l'inizio che era così bello. Appunto, questa è una modifica proposta all'articolo 65 della legge 22 del 1941. La legge originale è quella che diceva che gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore se riportato. Era una legge fascista, tra l'altro, cioè del periodo del 41 fascista. Esatto. Quindi il nuovo comma che vorrebbe essere... Possiamo tradurre il burocratese in chiunque poteva scopiazzare senza fini di lucro, esatto, citando articoli eccetera su un proprio sito internet o comunque semplicemente citando la fonte, uno poteva prendere un pezzo di un articolo o un pezzo di una trasmissione radio televisiva o qualsiasi cosa, citarlo e a quel punto come diventa adesso questo articolo, Marco? Illuminaci. E invece adesso le modifiche proposte sono le seguenti. Diventerà se verrà approvata, esatto, la finanziaria. Speriamo di no. I soggetti che realizzano con qualsiasi mezzo la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e l'associazione delle categorie interessate. Sono escluse dalla corrispondenza e dal compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 bla bla bla. Insomma, le modifiche di questa legge appunto andrebbe a obbligare coloro che vogliono citare semplicemente un articolo di giornale o un'intervista televisiva su un altro mezzo di informazione, obbligarli a pagare un compenso agli editori di... O perlomeno ad accordarsi. O perlomeno, esatto, ad accordarsi con l'editore di, appunto, della testata giornalistica o della televisione, appunto per poter citare questa notizia. E questa cosa è abbastanza orrenda. Ricordiamo semplicemente che un principio della Costituzione è quello di sviluppare la cultura, la ricerca scientifica e tecnica attraverso la libera circolazione dei saperi e permettere di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere, come appunto dichiarato addirittura nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ecco, basti pensare a quante sono le decine, forse centinaia, di comitati, associazioni, gruppi che per esempio costruiscono dei loro dossier facendo fotocopie di articoli di giornali, oppure pubblicano su internet archivi di notizie che vanno a denunciare soprusi che magari non sarebbero più disponibili dopo poco tempo perché i giornali non sono più facilmente reperibili. La stessa creazione di un archivio diventerebbe quasi illegale in un certo senso se venisse in qualche modo riprodotto ridotta, quindi viene anche a minare buona parte delle attività che la società civile ha potuto compiere liberamente in questi anni. Basta fare una semplice ricerca su internet per vedere quanti sono, per esempio, i siti che ripropongono articoli di giornale per documentare le loro istanze. E poi, tra l'altro, l'altra cosa abbastanza brutta di questa legge è che questo compenso non va ai giornalisti o agli scrittori che appunto hanno prodotto questi articoli o queste interviste o quant'altro, ma vanno invece a rimpinguare le tasche già ben ricche degli editori e dei direttori delle testate giornalistiche. Quindi più che diritto d'autore è proprio un diritto di copia. Sì, un diritto di copia, ma che non va a aiutare minimamente coloro che queste informazioni le hanno create e le hanno scritte. Vanno invece a dargli soldi a chi detiene il diritto d'autore, esatto. Quindi vabbè, sostanzialmente alle grosse case editrici di quotidiani. E quindi c'è anche una fantastica petizione sul sito di Peace Link, che è www.peacelink con la kappafinale.org. Poi in alto a destra c'è il banner del banner, chiamiamolo banner, sì. Un disegnino quadratino della campagna. Scritto firma qui per la campagna. Peace Link è appunto una di quelle associazioni che potrebbe essere danneggiata se dovesse pagare anche solo un centesimo per ogni articolo, probabilmente andrebbe in bancarotta. Pensiamo anche a Indie Media, che spesso e volentieri riporta gli articoli del Manifesto piuttosto che di altri giornali. A quel punto dovrebbe in qualche modo filtrare anche le pubblicazioni di chi pubblica nel Newswire, quindi chi pubblica liberamente. Chiaramente genera tutta una serie di complicazioni. Speriamo che sia stata solo una svista, oppure anche se non è proprio un tentativo maldestro, insomma, di portare a casa una cosa assolutamente inaccettabile. La finanziaria è ancora in via di discussione. Speriamo. La raccolta firme di Peace Link sono a 3.041 persone e 222 enti, associazioni e adesioni almeno arrivate sul sito di Peace Link, non aggiornate comunque, perché il sito è aggiornato solo al 4 ottobre 2006, quindi probabilmente negli ultimi giorni c'è stata anche qualche adesione in più. E tra l'altro, vabbè, questa gabella nuova da pagare, cioè, cosa sarà la prossima legge che si inventeranno? La tassa sul link, o quindi non si potrà più neanche dire. A pagina 32 del giornale è inutile pensare a degli scenari possibili, perché la nostra fantasia non arriva fino al punto di immaginarci quello che sono capaci di fare. Vabbè, siamo venuti nell'angolo del software, presentato oggi da Alessandro. A proposito di fantasia, anche questa è carina. Non ne manca neanche in generale al mondo open source, comunque a chi combatte per la libertà dell'informazione. Il libero accesso all'informazione. E in questo caso parliamo di un'operazione portata avanti dalla Free Software Foundation Europe, in particolare la sezione italiana della Free Software Foundation Europe. È presente un articolo sul sito, appunto. Dunque, fino a qualche giorno fa Poste Italiane S.p.A. e il Ministero delle Comunicazioni fornivano sui rispettivi siti l'elenco dei CAP, che sono quei numeri che, vabbè, sapranno tutti comunque, quei numeri che vanno a indicare le località italiane e che servono a snellire e a velocizzare notevolmente il sistema di smistamento della posta. Tutte queste informazioni erano liberamente accessibili, anche perché assegnate e, diciamo, in forma di conoscenza comune, insomma, di proprietà collettiva. Dal 20 settembre 2006, in concomitanza, c'è stata una riorganizzazione dell'elenco dei CAP, quindi una modifica dei numeri. In più, in concomitanza, appunto, Poste Italiane e il Ministero delle Comunicazioni hanno reso inaccessibili i loro CAP, cioè il codice di avviamento postale. Ok, o meglio, è possibile ricercare i singoli CAP dal sito invece che avere un elenco completo. Allora, questo chiaramente perché nel sito di Post SPA è chiaramente presente la pubblicità. Quindi è un modo da parte di Poste Italiane, insomma, di capitalizzare in pubblicità la proprietà o comunque la gestione di queste informazioni, che anzi la gestione, non la proprietà, di queste informazioni che sono di dominio pubblico. Per risolvere l'inconveniente, alcune persone che sono citate sul sito della Free Software Foundation hanno recuperato il database, quindi l'elenco dei CAP, l'hanno reso disponibile, l'hanno recuperato chiaramente in maniera lecita, quindi sostanzialmente trascrivendolo uno a uno con qualche forma di meccanismo, e l'hanno reso disponibile e hanno creato anche un piccolo software per navigare questo database. Il software è disponibile, il software è open source, chiaramente è disponibile via internet sia per Linux che per Windows che per Mac OS X, quindi per Apple. Allora, l'articolo è, vabbè, il link li trovate poi sul nostro sito, comunque www. Quando verrà aggiornato? Le trasmissioni di quest'anno sono ancora in pari. Non è neanche finita la prima puntata. I soliti pignoli. Allora, www.italy.fsfeurope.org, Free Software Foundation.org /IT/project/CAP, oppure sul sito www.digitalzero.org, è la prima notizia in alto, trovate almeno poi il link, almeno per oggi sì, trovate il link con anche un'immagine che vi fa vedere il programmino, dove poter scaricare il programma e chiaramente anche tutti i codici sorgenti. Quindi se vi serve l'elenco completo dei CAP italiani, sostanzialmente lo trovate lì. Oppure se siete dei programmatori, trovate anche il database, anche quello scritto in un formato aperto, SQL Lite. Così potete costruirvi sul vostro sito quelle cose tanto carine che quando uno digita il nome del paese compare automaticamente. Vi viene il fuori automaticamente. Ecco. Quindi ce n'è un po' per bene. Tutti. Viva la Free Software Foundation! Siamo giunti in conclusione della puntata di oggi. I cialtroni vi salutano. La sigla di Barry Gray, sempre Space 99. E ci rivediamo settimana prossima. Noi non ci rivediamo, ci risentiamo però, dai. Vabbè, dai. Eh sì. Io lo dicevo a voi due. Allora, giusto per cominciare bene l'anno, il sito è radio.circolab.net, ma soprattutto la mail è radio@circolab.net. Scriveteci! Scrivete opinioni, argomenti di cui vorreste avere potete un anche decidere di venire a fare con noi la trasmissione se vi interessa, soprattutto al posto questioni. Di Zamp, non c'è nessun problema, siamo tutti aperti a come i codici, come i sorgenti, a nuove collaborazioni. A mercoledì prossimo, sempre alle 12:40 su Radio Onda d'Urto.